più facile, almeno non impossibile. Avrei provato a rimpiazzarti da un po'. Guardo conoscesse lacrime e questa bocca solo verità, sarei riuscito a rinnegarti, giuro. È solo qui le mie paure tra le mani, solo qui una sciarpa di pensieri. Senza figlio, sono qui, io sono qui, io sono qui. Tu non sei mai, mai, mai venuta via, sì, quella scia di libertà. E tu lo sai, sai, sai che non c'è idea durante che volare via. Coraggio da vendere a chi mi offriva solo chiacchiere, stare su un treno in giro per il mondo. Se avessi detto sempre cose inutili o avessi detto sempre di sì, forse ti avrei tenuta vicino a me. Ma io sono qui, le mie paure tra le mani, io sono qui, sciarpa di pensieri, io sono qui, salto dal ponte senza fili, io sono qui, io sono qui, io sono qui. Tu non sei mai, mai, mai venuta via, sì, quella scia di libertà. E tu lo sai, sai, sai che non c'è idea. Sapere tutto quello che c'è. Io acqua e vento le ho già prese, lo sai, ma ti assicuro non mi spegnerai mai, no. Ma io sono qui, le mie paure tra le mani, io sono qui, una sciarpa di pensieri, io sono qui. Salto dal ponte senza fili, io sono qui, io sono qui, io sono qui. Tu non sei mai, mai, mai venuta via, sì, quella scia di libertà. E tu lo sai, sai, sai che